toca decir unas cuantas palabras a los que están presentes y los que no están presentes. Esas cuantas palabras que les voy a platicar es la palabra que dijo el compañero Juan Villoro. O sea, ¿cómo es que llegan las compañeras, los compañeros de ser miembros, pues, representantes de la dirección política de lo que somos como es ZLN? Bien lo dijo, pues, el compañero, que no se salen de pueblo en pueblo a decir, miren, he hecho mucho trabajo, quiero ser miembro del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. No, no hacen campaña, como dijo el compañero Luis, no crean toneladas de basura para hacer su campaña, pues. Il 2014 è l'anno della sparizione dei 43 studenti di Ayotzinapa ad Iguala, con l'esplosione di un movimento di protesta che chiede verità e giustizia, problematizzando la violenza sistemica che dal 2006, con il mal chiamato di nome guerra alla droga, infesta il Messico. Una violenza di Stato, con lo Stato che prova ad assolversi responsabilizzando i gruppi del crimine organizzato e creando il mito della forza di criminali e la retorica dello Stato fallito. Proprio in quel 2014 gli zapatisti organizzano il primo festival mondiale delle resistenze e delle ribellioni contro il capitalismo e decidono di lasciare spazio non solo alle esperienze di lotte nazionali e internazionali, ma anche e soprattutto agli studenti di Ayotzinapa, togliendosi la parola. Il 2014 è anche l'anno del ritorno della violenza paramilitare in Chiapas, che si somma alle politiche di controinsurgenza e guerra di bassa intensità spinte dal governo. Di fatto un cocktail esplosivo che permette alla politica di assolversi e creare una fuorviante narrazione di scontro tra comunità, mentre la partita è ben più complessa ed è una strategia di guerra contro le ZLN. In questo schema la Realidad viene ucciso il maestro Galeano e così il subcomandante Marcos, dopo aver lasciato il suo ruolo di capo militare dell'organizzazione a Moisés, cambia nome in Galeano. Sentiamo un estratto dell'ultimo discorso del subcomandante insurgente Marcos. Dicen por ahí que no hemos logrado nada para nosotros. No deja de sorprender que se maneje con tanto desparpajo esta posición. Piensan que los hijos e hijas de las comandantes y comandantes debieran disfrutar de viajes al extranjero, de estudios en escuelas privadas y luego de altos puestos en la empresa o en la política. Que en lugar de trabajar la tierra para arrancarle con sudor y empeño el alimento, deberían lucirse en las redes sociales. Da queste parti dicono che non abbiamo ottenuto nulla per noi. Non smette di sorprendere come si manipoli con tanta imprudenza questa posizione. Pensano che i figli e le figlie dei comandanti e delle comandanti dovrebbero godere di viaggi all'estero, di studi in scuole private e poi posti di rilievo in aziende o in politica, che invece di lavorare la terra per strapparle il cibo con sudore e fatica dovrebbero esibirsi sui social network mentre si divertono nei locali ed esibire il lusso. Forse i subcomandanti dovrebbero procreare e passare in eredità alla loro discendenti le cariche, le probende, le scene, come fanno i politici di ogni dove. Forse dovremmo, come dirigenti della CIOAC storica o di altre organizzazioni contadine, ricevere privilegi e soldi in progetti e aiuti, tacerne la maggior parte e lasciare alle basi solo qualche briciola in cambio di eseguire gli ordini criminali che vengono dall'alto. Ma è vero, non abbiamo ottenuto niente di tutto questo per noi. Difficile da credere che 20 anni dopo quel niente per noi adesso si scopre che non era uno slogan, una frase buona per cantelloni e canzoni, ma una realtà, la realtà. Se l'essere conseguente è un fallimento, dunque l'incoerenza è la strada per il successo, per il potere. Ma noi non vogliamo prendere quella strada, non ci interessa. Su queste basi preferiamo fallire piuttosto che vincere. In questi 20 anni nelle ZLN c'è stato un avvicendamento molteplice e complesso. Alcuni hanno notato solo il fattore evidente, quello generazionale. Adesso, chi era piccolo o non era nemmeno nato all'inizio dell'insurrezione, lotta e guida la resistenza. Ma alcuni studiosi non hanno notato altri avvicendamenti, quello di classe, dall'originale classe media istruita all'indigeno contadino, quello di razza, dalla dirigenza meticcia alla dirigenza nettamente indigena, e il più importante, l'avvicendamento di pensiero, dall'avanguardismo rivoluzionario al comandare obbediendo, dalla presa del potere dall'alto alla creazione del potere dal basso, dalla politica professionale alla politica quotidiana, dai leader ai popoli, dall'emarginazione di genere alla partecipazione diretta delle donne, dallo scherno per l'altro alla celebrazione della differenza. Non mi dilungherò oltre, perché il corso La Libertà Secondo Zapatistas è stata proprio l'occasione per constatare se nel territorio organizzato vale più il personale che la comunità. A livello personale non capisco perché gente pensante che afferma che la storia la fanno i popoli si spaventi tanto di fronte all'esistenza di un governo del popolo dove non ci sono gli esperti del governare. Perché li terrorizza che siano i popoli a comandare, a muovere, a dirigere i propri passi? Perché scuotono il capo con disapprovazione di fronte al comandare obbediendo? Il culto della personalità trova nel culto dell'avanguardismo il suo estremo più fanatico. Ed è esattamente questo che gli indigeni comandino, e che ora un indigeno sia il portavoce e capo, ciò che li atterrisce, li allontana ed alla fine li spinge via alla ricerca di qualcuno che necessiti di avanguardie, capi e leader, perché c'è razzismo anche nella sinistra, soprattutto in quella che si crede rivoluzionaria. Le ZLN non è di quelli. Per questo non tutti possono essere zapatisti. Soprattutto in la che si pretende rivoluzionaria. El ZLN no es de esos. Por eso no cualquiera puede ser zapatista. Sono gli anni di altri grandi incontri pubblici, quello sulla cultura, sulla scienza, i nuovi convegni contro il capitalismo e i festival del cinema. Sono gli anni in cui l'autonomia indigena cresce e si aggiusta. Sono gli anni in cui anche il Chiapas subisce la mal chiamata guerra alla droga, e quanto messo in campo contro gli zapatisti e le zapatiste diventa sistema con l'inserimento dall'alto di gruppi del crimine organizzato che hanno, come nel resto del paese, il ruolo di prendere il controllo del territorio, facendo ciò che l'esercito e i gruppi paramilitari legati ai partiti non possono fare. Il 2020 e il 2021 sono gli anni della costruzione della Gira Zapatista per l'Europa, dell'invasione pacifica e di senso opposto a quella fatta da Cristoforo Colombo, e quindi del colonialismo dell'Europa da parte di indigeni ed indigene rivoluzionari. Un incontro scontro con il mondo occidentale, che tanto ha significato per i collettivi europei e che hanno potuto misurarsi con la storia delle ZLN senza dover prendere un volo intercontinentale. Ma sono anche gli anni dei festeggiamenti di 40 anni di storia, 30 di rivoluzione e 20 di autonomia. Sono gli anni in cui si tirano le somme di una storia magica e tremenda, di una rivoluzione che guarda avanti, come dicono gli ultimi comunicati usciti prima del 17 novembre 2023, data dei 40 anni dalla fondazione delle ZLN. Chiudiamo quest'ultimo podcast con le voci di Juan Villoro, Juan Bobadilla e Raúl Zibeji. A mi modo de ver, lo más importante que han aportado los zapatistas. Per me, la cosa importante che hanno fatto gli zapatisti è di fatto costruire un movimento che ha una fortissima base etica e morale. Gli zapatisti non cercano il potere per il potere, a differenza dei partiti politici. Gli zapatisti propongono il comandare obbediendo. L'hanno detto più volte e di fatto la loro lotta è un segnale, è un grido d'allarma affinché l'esplotazione, lo sfruttamento, le discriminazioni smettano di esistere nel mondo. Proprio per questo gli zapatisti hanno di fatto detto più volte di aiutarli a non essere necessari, di aiutarli a farli sparire dal pianeta Terra. Questo di chiedere un cambiamento senza avere niente in cambio li trasforma in un movimento che può essere paragonato a quello del Mahatma Gandhi oppure quello dei diritti per i diritti civili negli Stati Uniti d'America, quello guidato da Martin Luther King, possiamo dire. Non si tratta di fatto non parliamo di un movimento che nasce per sfruttare la sua forza a proprio vantaggio, ma per cancellare dal mondo delle diseguaglianze che devono essere cancellate. In questo credo che sia molto importante per il Messico tutto l'esempio delle ZLN e la storia degli zapatisti. Legato una contribuzione assolutamente fondamentale per la storia di México. Ah, bueno, yo creo que han hecho una revolución distinta a las revoluciones anteriores. Bene, penso di fatto che abbiano fatto una rivoluzione che non può essere paragonata con quelle precedenti. Questa è una rivoluzione che non vuole soppiantare il potere, ma costruisce il proprio mondo, si autogestisce e non prova a copiare lo Stato, ma fare un percorso proprio senza la burocrazia politica o militare. Per capire di fatto quello che hanno fatto gli zapatisti, credo che bisognerebbe paragonare i loro 30 anni di rivoluzione al punto in cui sono arrivate a 30 anni la rivoluzione cinese, quella russa o quella francese. Ecco, tutti questi tre esempi possiamo dire facilmente che dopo 30 anni avevano creato degli stati forti e di fatto una situazione di oppressione verso i lavoratori, gli studenti o i contadini. E questo credo che sia una grande differenza, perché in questo caso davvero si costruisce un governo del popolo e non può neanche essere paragonato con i Soviet, perché non a 30 anni ma già a 15 anni dalla rivoluzione di fatto si era instaurato lo stalinismo e questo di fatto aveva trasformato il senso dei Soviet, che erano diventati dei luoghi di propaganda della centralità del partito, e questo è certamente il primo punto. L'altro è che gli zapatisti e le zapatiste hanno deciso per la resistenza pacifica. Questa forma di resistenza marca di fatto lo zapatismo e lo trasforma in un movimento sociale cosciente di aver osservato anche l'esito delle rivoluzioni e delle guerriglie, soprattutto guardando a quella guatemalteca e ai suoi risultati. E se noi sommiamo i due elementi, per me questo diventa fondamentale, perché sono dei veri e propri strumenti storici che gli zapatisti mettono in campo, diventano dei veri e propri esempi, come invece non ha fatto la rivoluzione russa, per esempio. E penso che questo processo, che non so se chiamarlo rivoluzione, vada visto con calma e paragonato con gli altri che si sono visti in Centro e Sud America, E ricordiamo anche che la scelta fondamentale di non fare la guerra, ma di una resistenza civile pacifica, è stata una scelta ben ponderata, perché in fin dei conti come esercito avrebbero potuto farla. La rivoluzione russa. Questo è un cambio, una vuelta che nessun altro altra rivoluzione ha potuto incarnare. Y me parece que es necesario mirar estos procesos con serenidad, con calma, por supuesto compararlos y mirar dónde está hoy El Salvador, dónde está hoy Nicaragua, Guatemala, por hablar de los procesos más cercanos en el tiempo a la revolución zapatista. No sé si llamarle revolución, pero acá hay un proceso por el cual los pueblos se ponen de pie, se autogobiernan y toman decisiones. Y una de las decisiones, ¿no?, fundamentales ha sido no hacer la guerra al enemigo que sí nos hace y les hace la guerra. ¿Qué significa o significó para México y los pueblos originarios la idea de autonomía indígena? Bueno, este es un tema que creo es muy importante y un tema largo, porque justo la autonomía de los pueblos indígenas, pues la hemos tenido algunos, otros no. Y los compañeros zapatistas nos dieron un ejemplo de la autonomía sin reconocimiento del gobierno. Eso es importante, dado que sí hay autonomías como la... ¿Cosa ha significado per i popoli originari l'esempio dell'autonomia indigena zapatista? Un esempio molto importante, perché se anche è vero che tutte le popolazioni indigene avevano una propria forma di autonomia, però non tutte l'hanno praticata, come per esempio hanno fatto gli Yaqui, un popolo del nord. E quindi quello che hanno fatto gli zapatisti con il loro esempio e la costruzione di autonomia è stato un modello in qualche modo replicabile, e la loro idea di un mondo che contiene tanti mondi, la difesa e la tutela della lingua, delle tradizioni e dei costumi indigeni sono un esempio fondamentale. Sono un esempio fondamentale sia per le popolazioni indigene sia per la lotta al capitalismo di fatto. E questo credo che siano esempi delle cose più importanti messe in campo dall'esercito zapatista di liberazione nazionale. Pues con lo que tenemos cada quien en nuestros lados, ¿no? Ellos lo dijeron, cada quien en sus modos y en sus formas, poder construir un país, un mundo donde quepan muchos mundos y que uno pueda ser uno mismo sin dejar de ser lo que uno es, para integrarse a la sociedad, como a nosotros nos pasa como pueblos originarios, pueblos indígenas, donde nos piden dejar de hablar nuestra lengua o nos impiden hablar nuestra lengua para integrarnos al Estado o a lo que da el Estado, tal como ahora lo viene haciendo el gobierno actual, repitió las políticas de hace 50 años. Creo que eso es lo más importante, que es una evolución dentro de la lucha tanto de los pueblos indígenas y es un avance en contra del capitalismo. Gracias. El camino marcará. estás. Yeah.